41 minuti primi, le frequenze, quelle di Radio Androsso 87.9 della banda romana e laziale. Ultima puntata per la stagione radiofonica 22-23. Poi si riprenderà, crediamo, insomma, se avremo voglia, forza e contenuti. Non a settembre. Probabilmente o alla fine di settembre o magari ottobre, ma comunque sapete, poi ci sono anche le evenienze, succede, capita che qualcuno chiede o devo fare sta cosa e si riapre la radio, si riapre la radio, è già aperta, però si riapre i battenti di 25 o'clock. E con piacere andiamo avanti. Ce la caviamo con quest'ultima puntata in studio con il Caronte, quindi una formula che un po' di anni fa era consueta, è diventata più sporadica, però insomma ci piace di tanto in tanto, specie quando si decide un argomento come questo, di prenderci un po' di spazio e di coltivare così la nostra passione. Ricordiamo l'appello a sottoscrivere per la radio, il radioabbonamento è concluso da un po' di settimane ormai. Questo però non significa che la radio non ha bisogno di soldi. E continuiamo quindi a chiedervi un contributo per la radio. Contributo ancora più importante nei mesi estivi, in cui le spese continuano a essere sostenute. Vabbè, poi lasciamo perdere l'economia, la macroeconomia, il PIL che è diminuito, l'inflazione che avanza, insomma, l'IVA, l'OVA, l'UVA. Però l'ingente bisogno di finanziamenti della radio non termina sicuramente il mese d'agosto, perché la radio allenta un po' il ritmo delle trasmissioni. Caronte ha preparato una cartella che si chiama Psicodrama. Oh. Quindi andate sul sito www.fondarossa.info, trovate tasto sostieni e ci stanno scritte tutte le modalità per poter contribuire alle finanze di Radio Onda Rossa. 61 80 40 01 è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00185 Roma Sallollo. Nonché, comunque, quando la radio è aperta, special modo la mattina in questo periodo, potete venire direttamente qui, appunto, negli studi al primo piano di Via dei Vosci 56. A trovarci, magari ci portate pure un caffettino, insomma, che è sempre difficile tenere la radio aperta in questo periodo, magari quando si è da soli a trasmettere. A contribuire appunto anche nei mesi, nel mese di agosto, alle finanze di Radio Onda Rossa. 25 o'clock@ondarossa.info è la cartella, la casella di posta elettronica dello spazio che state ascoltando. Mandateci insulti o quello che volete, anche le vostre proposte musicali le ascolteremo, le accetteremo di buon grado. Come succede spesso, alle volte, se qualcosa ci piace vi invitiamo anche a parlare o a visitarci qui negli studi di Onda Rossa. Onda Rossa @ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione. I social ci stanno tutti, li sapete, basta cercare Onda Rossa col nome del social. @06491750, il recapito della radio dal 1977. E noi partiamo con una band di Seattle, si chiamano Kieski, lavoro del 2007. Così, proprio in in omaggio al Caronte che questa sera trasmetterà con noi, Silent Biker Type. Io la mando da capo, eh. E gli lascio la baracca e i burattini. che bella introduzione. 25 o'clock, ovvero la 25esima ora, circa 35 anni fa, si chiamava ancora Next Time e funzionava più o meno così: al posto dell'uomo peloso qua c'era un giovinastro assolutamente non peloso, glabro, glabro, più basso, iniziava a perdere i capelli abbondantemente in quell'epoca, e diciamo funzionava proprio così, cioè lui arrivava, metteva la sigla, lanciava il primo brano, l'incipit, e poi mollava, e poi mollava, esatto, vai, vai. E cominciava insomma a bere, a saltellare, a scappellottare la gente a destra, certo, a dare fastidio, a dare fastidio, esatto. Allora, qualche retroscena però bisogna svelarlo, perché sennò le persone dicono: ma cioè sono le 10, insomma, stasera potevate iniziare anche prima. In effetti dovevamo iniziare prima. Sì. Ma io sono arrivato con un leggerissimo ritardo, circa un'oretta. Si è addormentato. Poca roba. Professore, si è addormentato, è successo così. E quindi io, per una serie di peripezie che non sto a spiegare, non potevo preparare la scaletta prima. E invece di essere qua in radio a preparare la scaletta, lo aspettavo. Vabbè, poi ci stanno questioni di hard disk che non parlano con i PC, sì, insomma. No, vabbè, vabbè, lasciamo stare. È una tradizione storica. Poi questa è una tradizione storica. Un po' questa qui è 25 o'clock, cioè la 25esima ora, l'ora rubata, il tempo rubato ai ritmi della produzione e del consumo, quindi quelli li lasciamo fuori. Esatto. C'è l'avviso di disconnessione come sigla. Il PIL decresce e quindi Antonio Albanese avrebbe detto, al contrario di come dice, avrebbe detto meno PIL per tutti, è andata così. Ma c'è anche un altro retroscena, sì. E cioè che il professore, com'è andata questa serata? Mi chiama qualche giorno fa e mi dice: ma facciamo così un'ultima trasmissione, una roba tipo uno speciale estivo, però dobbiamo portare tutta roba vecchia, la roba fulminata, quella che proprio che non ha bisogno di commenti, che noi lasciamo ste tracce lunghe una quaresima e amen. E io al che ho detto: beh, questa, cioè non devo preparare niente, insomma, certo, è la tradizione. Certo. Io arrivai qui appunto 37-38 anni fa, manco mi ricordo. Non sapevo quasi nulla di musica, non che gli altri sapessero chissà cosa del Mare Magnum, ma io sapevo comunque anche un perché centesimo, eravamo pischelli, esatto, certo. Sapevo un centesimo di quello che sapevano gli altri, e quindi la cosa più facile era quella di mettere i grandi classiconi, certo, che insomma non si commenta. Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, Floyd, allora, cioè. Allora io stasera sono caduto nel tranello, ho fatto una roba di quel tipo, e invece lui si è presentato con la robetta, diciamo, psichedelica, ma più recente, capito? Così io faccio il vecchio e lui invece fa, come dire, lo scopritore, il narratore di nuove dimensioni. Beh, no. Sì, ecco, hai detto te fai il vecchio, io faccio il vecchio, perché insomma, appunto, mi sono addormentato. Quindi, ecco, questo per anticiparvi che la scaletta che ho preparato al volo in realtà è veramente roba fulminata, cioè roba bellissimo, che, roba bellissimo, che non si commenta ormai nemmeno più, voglio dire, quindi bellissimo. Rievoca soltanto. Io abbasserei un pochetto i volumi, però ci penso io, del ritorno in cuffia, perché fischia. Ah sì? Sì, sento vero, un fischio che ritorna. No, bisogna abbassare i microfoni forse più che... No, basta abbassare la cassa in studio che... Ok, sì. Alla fonte, benissimo. Bene. Vabbè, nel frattempo, come al solito, la traccia che era ci l'ultima, frega, era l'ultima. Ah, era pure l'ultima. Capito qual era tutto il giochetto, ti lascio baracca e burattini. Aiuto. Quindi puoi pure ricominciare il disco da capo se vuoi, oppure mandiamo quello che era previsto. Quindi 25 o'clock, onda rossa e poi un sonar. Thank you. Vabbè, non vi preoccupate, non ve la facciamo ascoltare tutta. echi da altri tempi, da altre dimensioni, direi. Aspetta che non tolso il microfono. Eccoci, dal disco Middle del 1971, se non andiamo errati. Qui 71, vieni 71. Proprio, sì. Sopra un argomento super noto, vai. No, dicevo che insomma, col Patata si faceva effettivamente nuova e vecchia psichedelia, ma all'epoca la neopsichedelia era quella soprattutto australiana, quella degli anni 80. E scandinava. E scandinava, vabbè, ma in realtà anche statunitense. Certo. Però principalmente australiana, insomma, Line Spider, quella gente lì. Udugurus. E Radio Burnham. Sì, e chi più ne metta. In quel periodo bazzicava la trasmissione anche un altro pelato che era sardo. Ah, sì. È sardo, buon per lui. Sì. E un giorno portò un disco. Anche detto Erzardo. Un giorno portò un disco che rimase arnano. E quindi è uno dei dischi che ho ereditato e che magari il sardo sicuramente protesta e lamenta. Io neanche mi ricordo se gliel'ho mai ritirato. No, assolutamente. Quindi, no. Forse sardo c'ha arti problemi adesso, non problemi seri per fortuna, però diciamo problemi di uscire dal mondo del lavoro perché si è un po' rotto le palle. Mettiamolo così. Questo disco era un vinile direi prezioso perché non ce ne sono molte copie in giro ed è una collaborazione di David Byrne e Brian Eno. L'album si chiama, se non vado errato, My Life in the Bush of Ghost, e il brano che ascoltavamo periodicamente quando insomma si spegnevano le luci e si accendeva il moscone, tutte ste robe qua, si chiamava Curan ed è quello che vi facciamo ascoltare anche adesso. Thank you. Ma che dopo la rimandiamo da capo? Dai. Ora, vai, no, intanto dico The Osis, che hanno contratto il nome in Osis. Osis, insomma, non sappiamo in realtà che cosa vogliono, cosa voglia significare il nome della band. Comunque loro sono, dicevi prima, psichedelia essenzialmente australiana, eccetera. Invece stasera quasi tutto Stati Uniti. Non abbiamo affrontato la parte del britannica, che pure comunque c'ha una scena interessante di per sé anche dal punto di vista della psichedelia. Non abbiamo completamente lasciato indietro le cose scandinave. Alla fine è andata così, ci sta un po' di roba italiana in realtà e soprattutto roba americana. Questi vengono dal Texas, un disco, questo lavoro qui, se l'hai te, comunque come? Non li invidio, vengono dal Texas, dico, non li invidio. No, la data del disco dovrebbe essere 2010, qualcosa del genere, di uscita. No, idea. Lo troviamo su, anche perché loro comunque hanno una roba abbastanza lunga di produzione dal 1999. Non c'è scritto, infatti. E invece c'è scritto, no, non c'è scritto, c'è scritto, non c'è scritto. 2015, no, è più recente, sì, hai più recente. Capito, White Red Hand, mano bianco rossa, e io la rimanderei da capo. Dai. Fanno garage, psichedelia, surf, insomma, una fiata. qualche robetta, eh? Bravo, bravo professore, dai. No, questa fu una delle, all'epoca, insomma, quando trovai il dischetto, una delle cose più mandate, poi, perché è un disco estremamente eclettico, vario. Adesso, per esempio, parte un tastierone, senti, per proprio in stile, beh, insomma, un disco anni, anni 60-70, un disco da ascoltare alla Procolarum. Sì, sì, sì, c'è un po' di tutto, molto interessante. Bravo. Lo senti? Mi domando se hai mai svelato l'ispirazione, l'origine, più l'ispirazione che l'origine del titolo di questa trasmissione. L'hai mai detto? No, il no, l'abbiamo detto insieme, credo. Ah, sì. Perché in realtà il titolo era tuo. Diciamo, ah, sì. Il progetto si nacque. Qualche. Praticamente appena finisce Next Time, si cominciò a pensare a come proseguire. La cosa, insomma, era così un po' dolorosa, tra l'altro. Molto e dolorosa. Quindi alla fine, insomma, sì. Anche spaventosa, direi. Pensare a, questa radio e in particolare a questa trasmissione senza il nano, effettivamente era una roba da spavento. E quindi, insomma, però carichi comunque dell'entusiasmo di poter comunque in qualche maniera, di dover comunque, non tanto della responsabilità di dover continuare, non tanto della volontà di volerlo fare, proprio della responsabilità di non lasciar cadere la cosa, perché ci sembrava comunque doveroso continuare. Poi ci siamo pure lasciati prendere l'entusiasmo. In realtà, appunto, quella che avrebbe dovuto essere la sigla, in realtà, di apertura della trasmissione, poi divenne invece il titolo della trasmissione. C'è anche un film, tra l'altro, che più o meno è coevo dell'inizio della trasmissione, che sì, sì, che si chiama 25 O'Clock, e che me l'ha svelato, tra l'altro, poi un film molto folle, come d'altronde la trasmissione. E tra l'altro, direi un brano che, e prendeva il nome dal appunto dal brano dei dico, un brano che il nano non ha mai approvato e non avrebbe mai approvato, certo, diciamo. Fricchettoni di ritorno proprio a vecchia maniera, insomma. Una cosa. Io stasera avrei voluto mandare i Best Friend, che forse erano ancora peggio dei Two Girls, dal vivo, ancora peggio dei, che poi è uno alla fine, è lui, è un po' il Moloch che va a raccattare dei folli che lo seguono. Concerto al Piper fine anni 80, se non ricordo sì, male. Sì, sì, e sì. Il batterista ruppe la bacchetta. A un certo punto restò senza una bacchetta, un macello. E batteva con le mani. No, non l'ho mai visto. Base Front, comunque, un disco uguale all'altro, hanno fatto tipo 100 dischi, non lo so, non ce n'è uno diverso dall'altro, sono tutti uguali. Però appunto basta averne un paio e uno già può, esatto, no? Può apprezzare. Bene. E vabbè, allora, insomma, poi parliamo del 2 agosto, vedi un po', anche perché hai sentito, hai avuto modo di ascoltare venendo qui magari il redazionale che abbiamo fatto? No, anche perché ci ho messo veramente poco ad arrivare. Ah, va qua. Bene, va bene, va bene. E allora, in questa veste erano i Duke of Stratospheres, ma anche noti come XTC e tante altre cose e diavolerie. Il brano, l'abbiamo detto, 25 O'Clock, e non possiamo, nonostante la sua disapprovazione, non possiamo però non mandare un bacio all'amore nostro. Five. maniera, come di maniera. E, vabbè, questo, anche questo diventato un grande classicone, perché in realtà verso la prima metà degli anni Ottanta non è che si sentisse così tanto in giro, però chi ha avuto la possibilità di avere tra le mani, sì, anche perché proprio era negli anni Ottanta, c'era una neopsichedelia che appunto, esatto, però c'aveva altri canoni. Qui invece parliamo proprio di psichedelia in termini classici, lisergia, proprio lisergia pura, sì, diciamo. Lisergia, sì. E dicevo che era fine degli anni 60, insomma, invece pubblicato con gli stessi stilemi di maniera, dicevo prima, 15 anni dopo, 15 anni più tardi. E chi ha avuto, dicevo, la fortuna di avere tra le mani il vinile di questo album sa che era un vinile stampato tutto in rosso, un rosso fiammante. Era una roba molto particolare, erano i tempi appunto dei colori, dei disegni psichedelici, insomma, di queste forme senza una geometria, diciamo così, molto, molto interessante. Qui c'è Inegada David, ma questa dobbiamo mandare o... Sì, volevo mandare questa, magari la mandiamo da capo. Alcuni dicono che questo Inegada David sia la stroppiatura di In the Garden of Eden, ma insomma ne sono girate a valanghe di cazzate su queste cose qua. Questo è come l'hanno chiamata, Inegada David, loro sono gli Iron Butterfly. una sorta di liturgia lisergica, direi. Sì, quello che definivi te all'inizio, l'idea appunto di mandare della roba vecchia, antica, però con fulminata però che è espressa proprio degnamente nella Gadda David, una traccia lunghissima, 18 minuti credo, penso 17, che faceva 17, faceva tutto un lato di del disco, sì, era uno dei due faccia, lati, uno dei due lati della faccia, come si usava fare un tempo, una grande cavalcata lisergica, insomma, che comunque proprio per la, tra l'altro per la sua lunghezza, come era spesso all'epoca, era quella la lunghezza standard, perché al massimo potevi coprire il lato di un disco, a meno che non volessi fare cose strane per cui dovevi poi riprendere un pezzettino lato A, lato B, però insomma diventava, quello era l'imposizione fisica per preparare appunto una traccia di lunghezza massima. Poi dal vivo penso che erano delle esecuzioni interminabili proprio, senza capo né coda, improvvisazioni, insomma, e appunto uso di sostanze lisergiche che aiutavano nell'estendere all'infinito, sia per quanto riguarda chi suonava e sia per quanto riguarda il pubblico. Poi ovviamente l'uso di sostanze lisergiche, parliamo di Jim Morrison, parliamo di tanta gente di quell'epoca, alle volte era così determinante nello svolgersi dell'esecuzione stessa, cioè alle volte i concerti non si facevano proprio, la gente stava talmente fuori che... Cioè, abbiamo anche delle testimonianze più avanti di roba di questo tipo che è stata ripresa così per caso, diciamo così, registrata in presa diretta, ma che è finita su un disco veramente per caso, insomma. Allora, non so se volevamo affrontare un attimo la data di oggi prima che passi. Yes. Assolutamente. Che ti ricordi te del... eravamo Vischelli all'epoca. Ma io ero al mare. Ero a Minturno e allegramente facevo questi viaggi interminabili con la vespetta, portando al mare uno per volta, perché quello era l'unico mezzo che avevamo, zie, cugini, cugine, insomma, quindi facevo metà mattina avanti e indietro con questa vespetta e poi metà, diciamo, tarda mattinata avanti e indietro per riportarli a casa a pranzo. E diciamo in queste una manovre... sorta di Pony Express dei Uber ante Vietnam di noi altri, insomma, pezzenti. E mi ricordo che tornando a casa per pranzo appresi la notizia da... Sì, all'epoca non c'era internet, ovviamente le televisioni è difficile pure che c'erano nelle case di vacanza, quindi quello che funzionava all'epoca era proprio la radio, certo. Il giornale radio essenzialmente che dava la notizia. E così, se mi conforti, io quello che ricordo, sì, la notizia sicuramente, ma anche così, forse per l'ambiente che frequentavo, già anche familiare, in cui insomma più o meno insomma, si partecipava in qualche maniera alle lotte di quell'epoca, papà insomma era comunque un sindacalista, eccetera. E quello che ricordo era come oggi mi sembra, poi appunto ricordi di un po' più di un ragazzino, insomma, quello che mi sembra che oggi sia veramente specioso parlare di questo, perché innanzitutto vabbè, il dramma umano, cioè una roba impressionante, non c'erano state tante stragi in Italia, ma una di quelle dimensioni, una bomba fatta, sì, le bombe nelle piazze, nei vagoni dei treni, cioè bisogna capire pure la sequenza logica e politica in cui questo episodio arrivava. E però il primo commento che faceva la gente normale, che più o meno appunto era quella della famiglia o le persone che frequentavo all'epoca, che era quella di comunque un attacco contro i proletari, cioè contro la gente appunto che andava in vacanza, che tornava che lasciava le fabbriche. All'epoca c'erano le fabbriche e Bologna in quel momento, il 2 agosto, era interessata dagli esodi della gente che dalle fabbriche del nord tornava verso, cioè tornava verso casa, andava a fare le vacanze al paese, perché quello si usava fare all'epoca. E l'impressione era quella, veramente stiamo parlando di, cioè era una strage di classe proprio fatta. Questo almeno è quello che poi nei ricordi sbiaditi, non mi ricordo manco con Magnano ieri, però nei ricordi formato abbastanza come dire funzionale alla strategia, anzi estremamente funzionale. Credo che sia stato l'evento diciamo stragista di quelli che abbia colpito più nel segno dal punto di vista della capitalizzazione del risultato strategico, diciamo. Era esattamente quello che si tentava di ottenere, cioè il massimo del ritorno mediatico, dell'attenzione, dello shock, e quindi da questo punto di vista il terrore, esatto, il terrorismo, quello è il vero terrorismo, cioè quello di fare qualcosa di insensato, in realtà di crudele, che aveva l'unico scopo appunto quello di spaventare le persone, non nel momento appunto a Piazza delle Loggie a Brescia c'era in corso un comizio, no? Quindi lì era un fatto proprio, un comizio sindacale, quindi c'era proprio quell'ordigno, era proprio la rappresentazione plastica di un attacco a quello che poi che era nato in quegli anni e che era il movimento non nato in quegli anni, insomma gli avanzamenti del movimento operaio della fine degli anni 60. All'inizio degli anni 80, cioè all'inizio degli anni 80, quell'epoca era un po' andava, benché forse ancora molto forte, diceva appunto la classe operaia, le conquiste fatte, insomma era un po' il periodo in cui queste lotte andavano un po' scemando, no? E quindi appunto si terrorizzava, si spezzava, come dici te, appunto a livello strategico, la possibilità di poter continuare anche negli anni Ottanta straordinario decennio di lotte, che, o anche di più, che si era presentato appunto dalla fine degli anni 60 fino al 1980. Ecco un po' questo, quello almeno che ricordiamo noi, che vorremmo aggiungere così a quanto detto oggi e a quanto invece di ameno le varie tre piste palestinesi, insomma robe senza capo né coda che servono semplicemente per confondere un fatto lampante, appunto, per chi in qualche maniera pur da pischello quell'epoca l'ha vista, anche a vantaggio dei più giovani che la sentono come una ricorrenza questa qua e non come un fatto proprio pesante. Sì, tutto sommato nell'immaginario collettivo effettivamente anche Piazza Fontana, se vogliamo, era una bomba dentro una banca, certo, che poteva in qualche modo essere confusa, no, come un messaggio rivolto contro i poteri forti, no? Dell'economia ovviamente non c'entrava un cazzo, ma nell'immaginario collettivo, diciamo, la bomba alla stazione a inizio agosto, quando in realtà l'Italia era molto più concentrata, diciamo, sul momento periodo tranquillità, vacanziero, certo, sul periodo tranquillità in cui ti rilassi, di quanto non lo sia, certo, oggi, insomma, anni fa, decenni fa si andava, sì, veramente mese, tutti in vacanza, mese. Esatto, e poi il mese di vacanza, agosto era un mese intero, la fabbrica chiudeva e facevi il mese di vacanza, insomma, e si tornava al paese. La cosa straordinaria era quella, cioè questa comunque questo paese comunque diviso in due, l'abbiamo visto anche noi fino agli anni, insomma, in cui abbiamo poi praticato alcune forme così. Beh, anche Roma era città di emigrazione, tanta gente veniva magari a studiare e si fermava per tutta la vita, semplicemente perché dentro la città, cioè quella dinamica dell'emigrazione interna allo stesso paese che abbiamo vissuto, che viviamo, insomma, in forme un po' diverse, ma ancora presenti, insomma c'è tanta gente comunque che dal mezzogiorno continua a venire, continua a girare, diciamo, a cercare comunque. Comunque era un periodo, diciamo, veramente particolare, in cui insomma si veniva dalla vicenda Moro, dal compromesso storico, lo stallo, diciamo, nei rapporti tra l'Italia e la NATO, evidentemente la paura che la NATO, diciamo, l'Occidente perdesse in qualche modo il controllo diretto delle scelte strategiche del paese. Cossiga certo. Imperava, diciamo, con gli apparati più o meno occulti, Gladio e via dicendo. Cossiga, che è stato il primo, penso, proprio a voler fedele proprio al suo intimo anticomunismo, mettiamola così, appunto, fu uno dei primi proprio a tirare in ballo delle piste alternative a quelle neofasciste, quando appunto ormai è evidente, cioè appunto oggi si diceva giustamente, tranquillamente, che sono tutti i gradi di giudizio, cioè una volta sono state raccolte gli elementi necessari per poter condannare e trovare gli esecutori materiali di una strage, cosa che praticamente è polverone per tutte le altre cose, per una volta che però i mandanti, appunto, chi, cioè non si può pensare che un ragazzino dei 21 anni, 22 anni, quanto c'aveva all'epoca Fioravanti, avesse potuto comunque immaginare, realizzare, mettere in atto, trovare le logistiche necessarie affinché, cioè ovviamente c'era una struttura dietro. Una struttura importante, direi. Così però ci avete scoperto la sorpresa, accidenti, l'automatico andava avanti da solo, non ce ne siamo accorti, è successo, quindi mandiamo un disco assolutamente. Thank you. Parole? Vai. Ma intanto per concludere il discorso di prima, sì, bisogna inevitabilmente dire che insomma per tutto quanto è stato ed è tuttora, diciamo che gli antifascisti non dimenticano, non hanno mai dimenticato, non dimenticheranno mai, e gli antifascismi, gli antifascisti odiano, diciamo, fascismi e fascisti, come dire, di tutte le epoche, qualunque sia il loro vestito, quello stragista prima, quello parlamentare oggi, ecco, nessuno dimentica niente. Certamente, ed è quello appunto che pure come radio facciamo nel raccontare molto più specificatamente, come nel relazionale, appunto ci vogliamo stare anche noi il 2 agosto, insomma, a ricordare e a fare, a mettere, a dare il nostro contributo appunto di comunicazione su questa roba, che altrimenti appunto si rischia di entrare non tanto nel dimenticatoio, ma nel polverone assolvi tutto, non è successo niente, tutto a posto, è una roba tanti anni fa, insomma. No, c'è una conseguenza storica, c'è tutta una serie, cioè, come dicevi te, giustamente, quell'episodio è un episodio storico che sta lì a dimostrare, e a anche a fare da, così, da spartiacque fra quello che c'è prima e quello che c'è dopo, determinante comunque. Ecco, ricordando anche che un morto partigiano non è uguale a un morto fascista, assolutamente, non dimentichiamo, diciamo, almeno da questi lidi, per noi la differenza è fondamentale. È fondamentale. E dunque, chi abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato Sandy Bull. Sandy Bull è, due parole su Sandy Bull, quindi su questo bluegrass. È un folk singer psichedelico, classe 1941, morto nel 2001, quindi più o meno l'età forse poco più grande di tutta quella generazione, no? Che ha... nata più o meno negli anni 40, che ha prodotto tutto quel pandemonio che sono stati la fine degli anni 60, inizio degli anni 70, tutto questo fenomeno che stiamo soprattutto nella tua scaletta andando a evidenziare. Dove tratta la traccia? Questa è una cosa interessante, perché si tratta di un disco che dovrebbe, è una colonna sonora postuma di un film di serie B, diciamo. Tutti conoscono Easy Rider, quindi 1900, adesso non so, Easy Rider 1970-69. Questo film si chiamava Two Lane Blacktop, che sta a significare la doppia riga che si trova, quella che del divieto di sorpasso, no? Che si trova sulle grandi strade, anche italiane, insomma, però soprattutto su queste grandi strade del deserto americano, della California. Quindi l'ambientazione è questa. Questo ragazzo qua, che dovrebbe essere più o meno di quella generazione, sto Filippo Salvatori di Berkeley, quindi è un altro luogo importante, insomma, l'Università di Berkeley e il movimento studentesco della fine degli anni 60, Timothy Leary, insomma, chi più ne ha, Jimi Hendrix, chi più ne ha più ne metta, vede questo film da ragazzetto alla televisione pubblica. Se ne innamora, non riesce, non conosce nemmeno il titolo, quindi fa un'indagine, si mette a conoscenza. Questo è un disco comunque pubblicato, adesso non c'è probabilmente la data, però penso una ventina anni fa, quindi si mette alla ricerca della videocassetta del film, la trova, riesce a capire che si chiama Two Lane Blacktop, e poi va alla ricerca della colonna sonora. La cerca in tutte le maniere e si accorge che non esiste la colonna sonora di questo film, per cui la fa lui. lui si mette a pre, appunto, essendo poi lavorando in una casa discografica, appunto, mette insieme tanti artisti, appunto questo Sandy Bull, Calexico, Wilco, Mark Zeddy e Mark Capel, che fanno pure del noise, Roscoe Holcombs, che fa sempre bluegrass, Santana, ma Jan Sand, Sonic Youth, Cat Power, Roman Gomery, insomma. Però, sì, una roba che abbiamo mandato tutta, un dischetto che abbiamo trovato di quelli, e comunque una storia interessante, di come si poi, appunto, poi quello che è successo, ne parlavamo proprio la scorsa settimana, della possibilità di sonorizzare i film anche a posteriori, cosa che si fa oggi. Put it in neutral, now start it, now put it in first, shut your eyes, first, second, third, fourth, reverse. Che vuoi fare adesso? Ci avevamo la sorpresina, credo, no? Ah, andiamo, ok. Beh, riprendiamo un tema, diciamo, delle jam session deliranti, ecco. Si chiama, l'hanno chiamato The Morrison Lament. Era una session in cui suonano dal vivo. Io non mi ricordo, francamente, forse in un locale che credo sia il Marquee Club o forse il Roundhouse, adesso non ricordo esattamente, ma venne registrata in presa diretta Jim Morrison e Jimi Hendrix, che appunto si lanciano, diciamo, in questo delirio, come dire, post tutto, post lisergico, post bevande, post sostanze, insomma, ecco, una serata un po' particolare per chi ha assistito a quel concerto. Okay, you gotta roll before the cops get here. I set it up. We're going against the Anglia. Put up the tools against 300. This is a big one. He dug that we lost to the TTO. She's running good. After DC, we'll go down to Florida. Veramente poi fulminati tutti e due. Popular favorite. Ma dicono pure le parolacce. Esatto. Yes! già, finisce così, perché a un certo punto si sente che Jim Morrison prende a pugni, a schiaffi il microfono. Penso che si sia staccato proprio il jack. Vabbè, quindi insomma, il bootleg, giustamente. Sì, riporta la presa diretta. È un disco, è un bootleg che si chiama I woke up this morning and found myself dead. Quindi mi sono svegliato stamattina e mi sono trovato morto. Allora, questo qui era una richiesta che ci ha fatto il Fantasma, che doveva essere dei nostri, ma cioè avrebbe potuto. No, non doveva, non mi aveva promesso niente. Gli ho, diciamo, un po' stalkerizzato per farlo venire, perché pure lui ha da dire sull'argomento, però sapete, insomma, è un periodo che bisogna mettergli il sale sulla coda, no, per acchiapparlo. Sì, però mi ha detto: guarda, ieri mi sono andato a vedere il concerto di Lilia Frain, insomma, notevole. L'abbiamo conosciuta Lili qui negli studi della radio, ha fatto anche un live qua molto carino per Fagiolino, per Alberto, quando Alberto era recluso nelle patrie galere, e avevamo cercato di realizzare un appuntamento radiofonico, quindi fatta arrivare la notizia all'interno di Le Bibbie a Fagiolino, ci sarebbe stato un concerto live dentro gli studi della radio per lui. Poi non lo so se alla fine la cosa è riuscita, bisognerebbe chiedere, perché poi mi sembra, mi ha detto: no, ma lì qua porta, poi quel giorno sì, non sono riuscito, perché poi era quello che qualche cosa è successo. Comunque gliel'avevamo dedicato, la registrazione c'è, lo sa. Fatto sta che poi un po' più tardi con Alberto, con Fagiolino, abbiamo organizzato un concerto con le Frame stessa al Forte, e quindi insomma se l'è vista in condizioni ben più piacevoli che dalla cella del carcere, sentita Radio Androssa. E quindi io direi, prima da capo è stato più elegante, recluso nelle patrie galerie. Sì, vabbè. Il tema dell'eleganza non è il mio abito, come tutti sanno e tutte. Allora io manderei da capo Lili Refrain. Abbiamo scelto a caso da YouTube, però una traccia di quelle che non stanno nei dischi nostri, ma una cosa più recente. Accidenti, oh, è quasi una nuova Diamanda Galas, direi, veramente potente. Ma la giovine di dov'è? Di Grazia? È di qua? Sì. Attenzione che va a scrutare. Eccolo. De Piazza Bologna. Ah, è di Piazza Bologna. No, troppo gnocca. No, vabbè, diciamo mezz'ora, insomma, più o meno. Sì, perché appunto quel giorno ci siamo caricati, quando ha suonato quel radio, sono andato a caricarmi tutti gli amplificatori, gli strumenti che si è portata. Quindi. Ma veramente complimenti. Sì, vabbè, no, mi dispiace che non sei venuto a forte a vederla o non l'hai vista in qualche altra occasione. Non avrei detto nulla e quindi... Tra l'altro noi venimmo in contatto con lei, io non avevo sospetti che fosse... però acquistando un disco. Siccome sul disco non c'era praticamente scritto nulla come si usa fare adesso, cioè i credits, non c'è scritto l'etichetta per la quale incideva, ma poi poche altre note. E quindi niente, poi appunto parlando col fantasma dice no vabbè, ma guarda che lei è de Roma, beh, organizziamo, e si è fatta la cosa. E... dopo che la mandavamo già da tanto tempo, insomma, quindi una bella sorpresa. No, in sottofondo tra l'altro c'è insomma in colori proibiti anche un omaggio allo straordinario Ryuichi Sakamoto, che è recentemente scomparso, un artista direi come dire impagabile, impareggiabile, uno di quelli che ti fa apprezzare, ecco, il tempo in cui vivi, effettivamente, perlomeno io l'ho apprezzato. Quindi molto. Japan, innanzitutto. Beh, questa è la versione la sua band, diciamo, di provenienza, poi una carriera importante. Questa è una collaborazione specifica con David Sylvian. Con David Sylvian, con David Bowie, insomma, un po' con tutto il gota del. Di quegli autori che, ecco, sono mainstream ma non in realtà hanno sempre diciamo che lui ha spaziato molto, esatto. È stata una persona comunque anche nel mainstream stanno un po' stretti, non avrebbero mai voluto abbandonare gli albori, ma la macchina così il music business li ha un po' stritolati, alle volte sono riusciti a navigarci bene, insomma, però ha fatto veramente di tutto, ma insomma in questo tutto ci sono tantissime cose molto molto apprezzabili, secondo me. Io lo manderei da capo, guarda un po'. Thank you. Partito. Che cambio, dai sitar di The All Service. È roba da schizzati, oh, questa. Che roba. Questi erano veramente da schizzati. Facevano, partecipavano a queste trasmissioni. Tipo disco ring, no, all'americana, non so. Sì. E vabbè, anche detto, diciamo, disco ring per chi c'ha almeno sopra, almeno sopra i 50. I 50, non sa manco che. Esatto. Comunque, insomma. E partecipavano, sono una banda di pazzi, tutti mezzi stempiati, con sti capelli, pochi capelli lunghi. Beh, ma ne giravano tanti. Tutti i dritti, ma veramente pazzi, scatenati proprio. Ragazzi, Focus. Sì, una roba, sì, sì, una roba senza precedenti. Sì. Ed eccoci quindi tornati in onda, abbiamo sentito i Focus, prima ancora The Old Service, The Old Service che era invece una band britannica, folk, quella con tutti i sitar, folk psichedelica dei primi anni 2000, Stephen Collins era un po'... hanno fatto due dischi, poi tutto sommato, poi non sappiamo che fine hanno fatto, comunque due dischi, due progetti molto interessanti. Invece qui per e appunto è stata forse l'unica scappata in terra britannica, però non per ascoltare appunto quello che ci interessa, cioè tutta la parte britannica dello space rock eccetera, di cui abbiamo gli Ugwind, casomai, se ci riusciamo ad arrivare fino a quel punto. Invece Jack Stott del Wisconsin, è una band essenzialmente metal, però di quello hard rock, direi, insomma, di quelle cose che andavano proprio all'inizio degli anni 70, no? Un po' su, per dirla così in maniera molto grossolana, sul filone del Black Sabbath, insomma, questo metal prog quasi, insomma, alle volte sconfinante con no, non vorrei dire col doom, perché ha poco a che fare col doom, però insomma, questa voce femminile è appunto quella di Jack Stott, che è il nome anche della band, insomma, è molto interessante, molto, direi, una produzione recente, insomma, 10 anni fa, dai, però suonata in maniera manieristica, come infatti non sembra una roba recente, no. E invece, se volessimo tornare al passato o al trapassato, sempre su Jack Stott, sì, era tutta la cosa della parte. Quindi, per dire, però, una produzione svedese, perché appunto sta roba qua invece si ascolta proprio nella penisola candina. Bene, atmosfere di nuovo psichedeliche, non proprio tra quelle più lisergiche, ammesso che vogliamo tornare indietro, non so, dimmi tu. Sì, forse se torneremo indietro, anche, però non sappiamo. Qui apprezzerai anche, perché insomma parliamo di Eric Burdon, ancora non era con gli Animals, insomma era proprio agli albori, quindi grande Eric Burdon, venti di cambiamento, sì. Credo fosse al tempo degli Yardbirds, se non sbaglio. Quindi parliamo addirittura della metà degli anni 60, sì, che sì, siamo sì, 65, sì. 66. Sì, diciamo quando forse gli Animals con Eric Burdon è un po' quel matrimonio, quel connubio, quell'unione che ha un po' fatto la forza di tutti. Però ci stanno gli Animals prima, insomma, tutto sommato facevano questo brusetto come si usava a fare all'epoca in Inghilterra. Eric Burdon invece aggiunge l'LSD, insomma, aggiunge quell'elemento sognante, quella nuova generazione che si fa avanti prepotentemente. Insomma. Sogni tesi, ma insomma, sì. Sempre sogni, diciamo. Allora, Winds of Change, Eric Burdon e Yardbirds. Started a new thing. questa aveva l'emblematico titolo di Word, una grande scoperta fu negli anni 2012-13, qualcosa del genere, 2015 forse, adesso comunque questa band, poi tra l'altro stasera appunto diciamo bugie, vi diciamo bugie, no, non c'è scritta la data, poi la troveremo. Diciamo bugie perché abbiamo detto che non andavamo in Scandinavia, invece ci siamo andati con questa band assolutamente inaspettata. A saperlo che volevi andarci c'era anche molto di più, insomma. Sì, no, ci abbiamo fatto una capatina con loro perché assolutamente appunto una sorpresa, un'illuminazione per un periodo, fu quasi come per i Rage Against the Machine, il periodo quello, no, ti ricordi, wow, dei primi anni 90 in cui si mandava solo quello, e pure io insomma fui ammagliato da The Goat, anzi Goat e basta, quindi la capra, riti divinatori, afrobeat che entrava prepotente in ogni loro esposizione, mascherati tutti con concerto. Li abbiamo lisciati qui a Roma, che vennero a suonare, volevamo organizzare proprio la cosa che avrei portato. Abbiamo lisciato a Roma, a Roma, vabbè, però poi hanno risuonato dopo, invece le cotte hanno suonato e basta, in un locale peraltro, credo, niente di autogestito, anche se credo che loro insomma vengano, comunque non abbiano problemi a confrontarsi anche diciamo i bassi livelli di produzione, insomma, quali l'autogestione può fornire. Poi questa qui pure è un preconcetto in realtà, perché invece nell'autoproduzione sappiamo abbiamo assistito al forte, a cose bellissime ma fatte tecnicamente, anche preparate con molto grande cura e grande perizia, e credo che in pochi locali potevi benché magari potessero fornire delle attrezzature più invece no, l'autogestione quando ben fatta, quando curata, produce dei grandi suoni e dei grandi momenti. Ricorda Ataraxia, per dire, un concerto, loro bravissimi, senz'altro molto curati nella produzione del suono, restituito in maniera egregia dai tecnici che hanno lavorato alla realizzazione del concerto. Per dirne uno, ne potremmo citare tanti altri. Niente, The Goat appunto fu un'illuminazione, Goat fu un'illuminazione, e abbiamo ascoltato Word e loro dicono le città del mondo, proprio perché per questo loro cosmopolitismo, questo loro andare a prendere a piene mani da qualsiasi tradizione magica che possa esistere in qualunque angolo della terra, come appunto che questo sotterraneo mondo della magia, della tra l'altro video molto, molto importanti, perché detta così sembrerebbe quasi degli esoterici, in realtà insomma loro hanno fatto dei video molto importanti sulle comunità nere, per esempio negli Stati Uniti, molti dei loro suoni erano accompagnati da immagini di comunità nere nei paesi tra virgolette sviluppati, magari alternate a delle immagini di invece nativi nelle tribali nelle terre d'origine, quindi a dire come a voler dire appunto che esiste comunque questo collegamento, l'impossibilità quasi di poter recidere le proprie radici antiche, il proprio essere culturale anche, appunto, a pensare ai fratelli Cavalera. sì, potrebbe essere esatto lo stesso spirito, però questa volta vicino al circolo polare artico, dall'altra parte invece da San Paolo del Brasile, insomma dalla parte che comunque riscopriva l'Amazzonia, senz'altro un atteggiamento abbastanza comune per quanto riguarda Goat, Sepoltura, Cavallera, Soulfly e tutta quella produzione là. Bene, la birra ha fatto il laghetto, Il fruscio che sentite sono i due potenti ventilatori che ci permettono di resistere ancora. Non so ancora quanto andremo avanti. Io penso che hai ancora delle cose in scaletta. Sì, sì, sì. Questa intanto è Soul Kitchen, ovviamente, un altro classicone, però non poteva mancare. Su. Questa da capo, certo. Sì, sì, The Doors, sì, ci volevano, abbiamo parlato di magia e insomma di alchimie, e i Doors niente, cioè quando sì. Senti una nota, se ci fosse un dio che benedica Ray Manzarek, mamma mia. E invece qui siamo nel pieno manierismo proprio, cioè abbiamo tanta roba loro. Si tratta di Black Mountains. A 10 anni dalla nascita ripropongono il disco, ci mettono dentro anche delle altre, un disco, un altro EP, insomma un altro bonus track, ma è proprio un disco a parte. e fra cui questa traccia meravigliosa che riascoltiamo, un portento, quando loro sono manieristi, cioè potrebbero anche risultare melenzi, diciamo, un ascolto, e soprattutto in alcuni dischi proprio andare a tingere a piene mani a tutta quella che la melenzi addirittura e andare a tingere a piene mani a tutta quella che è la traduzione di cui abbiamo parlato ora, cioè della musica selvaggia degli anni 70. Behind the Fall, da capo. Bene. Sai che invece sia il cantante che questi riff di chitarra mi fanno pensare a Junior Carbide Production. Sì, sì, però questa è un po' particolare, questa traccia esplosiva, insomma, è qualcosa di... Ah, nel frattempo finiva, io non sì, sapevo. Sì, sì, no, dura poco, non sono lunghissimi loro, almeno in queste produzioni. Beh. Poi fanno pure robe da 12 minuti, insomma, senza Vuoi lasciare o tornare indietro di nuovo? No, vabbè, l'abbiamo ascoltata tutta. Io direi, mentre preparo la traccia successiva, che è attinente, torniamo peraltro in Texas. Te prepara quello che c'è dopo. Vuoi... Non sai. Un nuovo salto nel passato. Ok. Ancora un po' questi colori suggestivi, un po' lisergici, un po'... Vabbè, ma io credo che comunque invece ci stiamo alternando abbastanza bene stasera, nel senso che poi alla fine c'è una continuità non voluta, un filo logico. Sì. Succede sempre. Questi voglio vedere se li indovini, eh. Ma tanto hai visto. Out there, it's summertime. Ho un vinile di questo, è una copertina scura con una banda rosa in alto. Te lo dovresti ricordare. Grateful Dead? No, mi sa che ce l'ho solo io questo. Che voglia. Roba veramente strana, loro erano i Fever Tree e il brano era San Francisco Girls. Strana perché si uniscono questi momenti un po' hendrixiani, molto duri, a invece questi vocalismi prolungati un po' alla Claudio Villans. No, però erano tipi, cioè, se vuoi anche Jim Morrison, insomma, no, era alle volte, amava il bel canto, benché lui era uno di quelli che diceva che non sapeva cantare, non sapeva intonare, non aveva, studiava moltissimo la sua voce perché aveva un la difficoltà ad accettarsi, diciamo. Sì, no, cioè aveva proprio un complesso di inferiorità rispetto Beh, come molti, anche se non tutti, insomma, lo esternano, ma certamente. Qua sotto c'è una barca a vela, ma dove? Sì, allora, di nuovo in Texas andiamo, terra fertile in realtà, non tanto per le coltivazioni di petrolio che vanno a mancare sempre più perché si produce appunto quello da fracking, sparando acqua, eccetera, molto costoso, molto inquinante. e molto imperialista, mettiamola così, diciamo, che texano. Texas invece probabilmente sarà una di quelle terre che andranno sempre più, a causa di questo nuovo modo di estrarre, andrà sempre di stecche al petrolio. Sì, le mandriani essenzialmente texani, ma invece non è vero, perché poi in Texas ci stanno delle interessantissimi fermenti culturali, fra cui questi The Black Angels, che sono una band, un'altra di quelle band, diciamo così, abbastanza dell'underground, ma abbastanza, non del tutto, comunque sono conosciuti. Ci hanno pure loro una produzione infinita, non so se dei 20 dischi, insomma, benché suonino pure loro da più o meno all'inizio degli anni 2000. Questa produzione è con le date del 2007, c'è scritto maggio 2006, novembre 2007, quindi ci hanno messo tanto. Science Killer, terza traccia, ci andiamo ad ascoltare Black Angels. Si va in barca. Up. Ebbene, questi erano i Jefferson Airplane, ovviamente Wooden Ship, la bellissima, direi, bella come il sole, Grace Slick, almeno a quei tempi lo era sicuramente. Paul Kantner scomparso, io, pure lui, non troppo recentemente, con la vicenda ormai 4-5 anni, non mi ricordo più del primo, dopo il Covid, quindi sì. Prima del Covid probabilmente, sì. Non mi ricordo esattamente quando. Loro praticavano e cantavano l'amore libero, beati loro. Una cosa importante, secondo me, da dire, che poi la psichedelia in realtà è molto vicina, si nutre di... da dove nasce, insomma, la psichedelia? Uno potrebbe domandarsi, no? Perché a un certo punto ci sta dall'artefazione, in realtà, dall'artefazione della, tutto sommato, della musica tradizionale, no? Anche della musica pop, delle grandi ballads che vengono dilatate. È un periodo importante, insomma, questo qui alla fine degli anni 60, in cui in realtà si prende la forma musica che era quella tradizionale, se vuoi anche quella commerciale, e viene fatta un'operazione abbastanza simile a quella che poi verrà fatta 10 anni dopo col punk, no? Cioè viene comunque straziata, dilatata, si fa la musica tradizionale sotto effetto di stupefacenti, di allucinogeni, di roba che ti fa sembrare il mondo diverso da quello che è. Sì, molto più semplicemente, la psichedelia è una realtà alternativa che è vissuta con gioia, serenità, insomma, e felicità. È appunto psichedelia, altrimenti sarebbe alienazione. Insomma. Certo, certamente. Ed è soprattutto importante dirlo, ed è indissolubile. Questo è il motivo per cui probabilmente noi abbiamo sempre mandato psichedelia dagli albori, dicevi te, insomma, dagli anni 80, quando abbiamo avuto la contezza delle nostre possibilità, delle nostre capacità, per quanto così elementari. Dicevamo, essenzialmente legata a un movimento, cioè non esiste psichedelia, oggi esiste, ma come nasce? Non esiste psichedelia se non esistesse un movimento di liberazione accanto, variamente inteso, non necessariamente politicamente indirizzato, insomma, però grosso modo è stata una grossissima forma di aggregazione in quel momento. La politica la faceva da padrone e quindi è stata una, diciamo, un'aggregazione con un forte connotato politico, almeno in quel certo tempo. Era correlata comunque a quei movimenti politici, le stesse persone che partecipavano alle grandi manifestazioni, ai grandi happening, come si diceva dell'epoca, poi andavano ad ascoltare questo genere di musica. Insomma. Beh, molti, insomma, hanno fatto anche della loro passione artistica, diciamo, vuol dire, una bandiera politica, certo, di lotta, certo. Voglio dire, gli MC5, insomma, certo, non ci dimentichiamo Robert Sinclair, Pantere Bianche, sì, Jefferson Airplane, che comunque erano, anche se loro scappavano quando c'erano i carri, però insomma ci andavano. Questo non lo so, no, perché qua al famoso concerto degli MC5, gli MC5 hanno fatto il concerto dentro i carri, invece Jefferson ha detto vabbè, noi ci... Ti facciamo un passo indietro, esatto. Sì. Con Fred Sonic Smith, John Sinclair. Ovviamente alla fine dei concerti era un rituale, insomma, finiva con gli MC5 che spaccavano tutto, diciamo, alla fine era un po' così. Allora, torniamo ai tempi nostri, immagino. Allora, questa qui è una produzione di qualche anno fa, e il nostro Gabriele Fiori, anche lui passato qui per gli studi della radio, leader sicuramente dei Black Rainbows, però prima dei Black Rainbows, Void Generator si chiamava il gruppo, che erano tra l'altro una band di Monte Rotondo, vicino Roma, che facevano psichedelia nella, diciamo, da giovanissimo il nostro Gabriele. È arrivata questo disco, poi lui, insomma, ha fatto tanti impicci, tante storie, un appassionato, uno di quelli che a Roma porta avanti proprio la scena della musica psichedelica, dello stoner, del doom, di tutto quanto quello che ci gira intorno a queste robe qua. Quindi ha prodotto, è in contatto con tante produzioni, tante band, tante case etichette più o meno piccole, internazionali, nei suoi giri. Quindi è stato in grado nel 2017, scusate, di produrre questa compilazione molto interessante. Abbiamo messo lì la traccia numero 9, mi pare. No, hai detto 6. 6 abbiamo messo, quindi Far Flu, You Will kill For Me, quindi mi vorrai uccidere. Sì. You Will Kill For Me? Sì. Quindi ucciderei per me? Sì. Ok, beh, interessante. We'll be right back. colors made of tears. Kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Poteva mancare ovviamente un omaggio a Lou Reed e ai Velvet Underground. Questo è un brano che ormai, sia noi ma penso anche voi, avrete sentito non so centinaia, forse migliaia di volte. Eppure ogni volta bisogna veramente togliersi il cappello. Un brano incredibile che rappresenta un personaggio, rappresenta un modo di vivere, rappresenta un'epoca. Tra l'altro lui scomparso anche lui credo intorno al 2019, se non sbaglio, 2018-19, adesso non mi ricordo. Oh sì, sì, vabbè, possiamo cercare. Vai. Vi esorto a leggere, se vi capita, la lettera che ha scritto la sua ultima moglie, tra l'altro un'illustrissima artista, parliamo di Lori Anderson, un'artista ovviamente poliedrica, ha scritto delle cose bellissime. Attenzione, il tempo passa molto in fretta, molto, cioè? In fretta, è 10 anni. 10 anni. 2013 è morto. Il 27 ottobre del 2013. Ma sei sicuro? Io no, lo leggo ormai su quanto è indicato in rete, ormai non siamo più sicuri di nulla. Quello che è, no, è una, la nostra percezione della realtà, diciamo, non collide esattamente, probabilmente appunto a forza di ascoltare musica psichedelica, perché per quanto riguarda le sostanze, diciamo, ormai a una certa età fanno troppo male, quindi magari è, non ne assumiamo magari è l'età più. Che come dire ci tende a farci sì al posto delle sostanze, farci diciamo l'incoglionamento non c'è farci percepire il tempo che scorre diciamo meno velocemente di quanto probabilmente in realtà, oppure come Obelix che era caduto da piccolo dentro la pozione per cui è rimasto allucinato, lui in realtà fortissimo, noi siamo rimasti allucinati per tutta la vita. Va bene, vuoi presentare prima il prossimo brano o lo mandiamo intanto che vuoi fare? No, no, lo possiamo pure mandare, li abbiamo visti pure loro a Roma, proprio prima parlavamo di Gabriele Fiore, Gabriele Fiori Flower, vabbè non mi ricordo G Flower come si fa a chiamare, vabbè comunque Gabriele che suonava appunto che Black Rainbows facendo l'apertura a Inam, che era un altro gruppetto che avevo cominciato ad ascoltare qualche tempo prima, per quello ci prendevamo molto in quel periodo, alle volte appunto anche gli ascolti e poi noi ci rimanevamo a quello, lui invece proprio li invitava, ci suonava insieme insomma. E Inam, altra band che fece un primo disco di, che si chiamava Kingdom, un disco possente, portentoso, con tracce lunghissime, sai di queste preparazioni. Questo invece è un EP successivo di quattro tracce un po' più sperimentali, un po' meno di maniera, da cui andiamo ad ascoltare. Allora l'anno intanto vatte la pesca perché qui è scritto in un 2012, quindi sì, più o meno siamo in quegli anni lì. Lands Unknown, terre sconosciute, Nams. Lands Unknown? Sì. Ok, bene. Left alone. Bene, con questo annuncio che ho formalmente terminato la scaletta. E noi penso che mandiamo magari un'altra traccia dopo questa e poi ci abbiamo alla conclusione. Va bene. E allora non potevamo concludere meglio che così. Loro sono i Tangerine Dream. Alchimia del cuore, Alchemy of the Heart. sì che si va un po' troppo nel melenso, direi, eh. Sì, però ci sta, insomma, calcola che credo questa roba è degli anni, metà degli anni 70, credo. No, no, questo è un disco più 80. Recente dei Tangerine Dream, sì, è un disco più recente. E quindi probabilmente anche questo, insomma, si dalla prima elettronica teutonica, insomma, che era molto più aspra, dura e sperimentale, ci si concede comunque qualche... Comunque, insomma, interessante anche dal punto di vista cinematografico, direi. Una colonna sonora perfetta, questa evocatrice di immagini comunque già di per sé stessa, quindi accoppiata a delle immagini, assolutamente fondamentale. Un disco che era molto venduto, tra l'altro, però non nel pubblico di massa, insomma. Mi ricordo che c'era sempre una copia nei negozi di dischi, che riprenderò a frequentare. Beh, questo era un periodo in cui, insomma, i Tangerine Dream avevano già perso molto seguito, ecco, quindi non erano più particolarmente al centro delle attenzioni mediatiche. Non lo sono mai stati in genere, ma ecco, ci sono stati periodi molto più sull'onda, diciamo. Sì, decisamente. Bene, dicevo, vogliamo ricordare che siamo all'ascolto di Radio Onda Rossa. Diciamolo. Beh, dai. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza 0649 1750. Prima qualcuno ci ha chiamato ripetutamente, ma non abbiamo... Forse qualcuno disperato. No, vabbè, dai, che sarà? Dalle 9:30, 9:40? Più o meno. Dai, insomma, ci si può stare, insomma, abbiamo fatto di peggio. Molto peggio. 59 minuti dopo la mezzanotte, praticamente l'una. E tessevamo, boh, come si dice? Le lodi di questo Oakley Hall, Pat Sullivan, da una costola degli Unida. Per questa selezione di ballate psicotiche. Feel Follow You dovrebbe essere il titolo di questo disco, talmente usato che non si riesce più a leggere. 2007, un disco che ci venne portato in una di quelle sue trasferte estere da parte della Capisciona, e che passava delle ore a selezionare musica per il sottoscritto nei negozi di dischi. Dicevamo prima, una cosa che ci piacerebbe ritornare a fare, ci ripromettiamo di farla prima della prossima stagione, passare quelle 2-3 ore in un negozio di dischi. Ce ne sono ancora pochissimi, però insomma, ad ascoltare, selezionare, vedere le cose che è utile mandare in questo spazio, benché ormai la musica sia quasi solo in web, via web digitale, scaricabile, tutto quello che volete, ascoltabile attraverso le piattaforme. Ancora ci piace molto invece di poter far girare i dischi. Lo diciamo, lo ripetiamo sempre. Non lo ripeteremo più per un po' di settimane, perché ce ne andiamo in vacanza anche noi. Dicevamo, si riprenderà 25 o'clock dopo l'estate, in autunno. Prima faremo appunto questo lavoretto di riposizionamento. Nell'attualità delle uscite discografiche. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, centri di detenzione per migranti, arresti domiciliari, decreti amministrativi, insomma tutto un apparato di robe che serve a reprimere non tanto il dissenso, che è una cosa che insomma non ci piace tanto il dissenso. Semmai l'antagonismo è qualcosa che ci appartiene di più e che vediamo più vicino, se vogliamo proprio usare un vocabolo più adatto. Ma reprimere proprio l'essenza, l'istinto, la scintilla della vita, che è tutt'altro che ordinata, ma estremamente caotica e complicata e complessa e piena di sorprese. E invece si vuole sempre reggimentare tutto in uni e zeri, in buoni e cattivi, in diavoli e santi. La programmazione di Radio Onda Rossa non ve la dico, perché tanto è abbastanza sconvolta in questo periodo pre-estivo, quindi ci saranno soltanto qualche parte del palinsesto. Sappiamo che molte trasmissioni hanno così dichiarato, hanno chiuso le serrande, quindi più che altro avremo repliche e inserti in diretta con quello che è necessario, le rassegne stampa, insomma il ruolo, come si dice, istituzionale della radio, anche se è così, un'istituzione autogestita per i compagni, per le compagne, per il movimento tutto, ecco. noi ce ne andiamo sotto la luna comunista a risentirci più in là, dai. Non c'è molto altro da dire se non a chi non si rindenati, e quindi buona estate. Buonanotte a tutti. Come al solito avete avuto molto coraggio ad ascoltarci fin qui, per quelli che lo hanno fatto. dreams. I'll share our dreams under a communist moon.